Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino. Giunti editore, 147esima edizione, maggio 2000. Registrazione offerta da Distretto Lions 108IB4. Lettura di Noemi Bigarella. Lions Club Verbania, servizio del libro parlato Robert Holman per i ciechi d'Italia. Questa registrazione è stata concepita e realizzata dal Libro Parlato Lions ed elaborata dal Centro di Milano Romolo Monti, unicamente per consentirne la fruizione, in via esclusiva e personale, ai non vedenti che ne fanno richiesta. Qualsiasi altro uso, come ogni altra utilizzazione estranea alla predetta finalità, non specificamente autorizzato, è soggetto alle sanzioni di legge. Prima traccia. Capitolo primo. Come andò che maestro ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta. Di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: «Questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino!» Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi: «Non mi picchiar tanto forte!» Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. Oh, dunque! Ho capito! Disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Ma si vede che quella vocina me la sono figurata io e rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. «Oi, e tu m'hai fatto male!» gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù, ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento: «Ma di dove sarà uscita quella vocina che ha detto "Oi"? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. Oh, dunque! Che ci sia nascosto dentro qualcuno. Boh, se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io». E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla, 5 minuti. E nulla. 10 minuti e nulla. Ho capito!